ti trovo bene. Si tu la parla mi è americano. Quando si fa la mola sotto la luna, con Madalena in cave di I love you. Papà l'America. Quando si fa l'amore sotto la luna, con Madalena in cave di I love you. Papà l'americano. Luna, con Madalena in cave, gli idoli.